English Bit di Giulia Crivelli. Block. Famed Plaza Hotel is on the block. Il famoso Plaza Hotel è in vendita. La notizia, con numerosi articoli sulla versione cartacea e su quella online, l'ha data al Wall Street Journal. La parola che ci interessa è block, usata qui come sostantivo. To be on the block significa appunto essere sul mercato e quasi sempre si ipotizza un'asta o comunque una battaglia sul prezzo. Per questo l'espressione si usa soprattutto per gli immobili ed è legata al fatto che block, con la K finale, significa letteralmente blocco, quindi anche blocco di partenza o, volendo, blocco di cemento o di marmo o di un altro materiale pesante. Interessante anche la traduzione di block con isolato. She took the dog for a walk around the block. Portò fuori il cane per fargli fare il giro dell'isolato. She lives only a few blocks away from my house. I visit her every day. Abita a pochi isolati da casa mia. Le faccio visita, vado a trovarla ogni giorno. L'espressione around the block ha anche però un'altra sfumatura. They have been around the block a few times. Hanno parecchia esperienza in un certo campo. E ricorderete tutti il gruppo musicale Kids on the Block, che vorrebbe dire, quindi ironicamente perché erano giovanissimi, che erano già presenti da molto tempo sulla scena musicale. Come verbo, to block, blocked, blocked, è regolare e ha un significato simile all'italiano. After today's heavy snow, many roads are still blocked. Dopo la pesante nevicata di oggi, molte strade sono ancora bloccate. Particolari due phrasal verbs. To block in significa fare uno schizzo. I have blocked in the shapes of the building. Ho buttato giù qualche indicazione sull'edificio. To block out ha un significato figurato. Over the years she had tried to block out that part of her life. Nel corso degli anni aveva provato a dimenticare quella parte della sua vita. Blockade, sostantivo, in italiano è ancora blocco. Stradale, per esempio. The police set out blockades on highway. La polizia organizzò dei blocchi stradali sulle autostrade. Blockage assomiglia all'italiano bloccaggio, ma anche in questo caso noi optiamo per il più semplice blocco. He never followed his doctor's advice. Last month he had an artery blockage. Non ha mai seguito i consigli del suo medico e settimana scorsa ha avuto un blocco arterioso. Blockbuster, come sappiamo, è un grande successo. Block letters vuol dire lettera maiuscola. Please fill in the application form in block letters. Riempite il modulo di iscrizione usando le maiuscole, per favore.